fatto troppi sorrisi e altri tanti te ne farò. Dimmi che mi dici, figlio, orecchie quante ne vuoi, ma non ti sento parlare e ti guardo, sembro indifferente, e provo a immaginare cosa puoi pensare. Sempre ed anche in questo momento siamo inseguiti dal tempo, ed è proprio questa la paura, abbracciata a te starei sicura. Si sciolgono negli anni le gacci e gli abbracci si fanno nel partire, sono assottigliate le occhiate, non si sanno capire. Ma non ho scelto io questo teatro, piuttosto che insultare il regista esco dal mio metro quadrato, vengo lì e ti do un bacio. Il mio cuore suona l'ansia, so che sei quel che ho potuto, ma mi avanza qualche cosa, ciò che tu non hai bevuto, non hai fatto in tempo e non volevi, ma adesso cosa ne farò? Mi devo limitare a constatare, oppure devo tenderti la mano, come tante volte ho visto fare, come mi aspettavo. Ciascuno non è più bambino, è ingenui, non si torna mai. Scartando questo pretesto, il resto siamo noi. Le tue spalle ora son partite ancora, e piango sulle foto più di prima. Ti ho detto coraggio e buon viaggio, ma il coraggio a me chi me lo dà?